sogni rubati, bimbi che giocano davanti ai cingolati, un'altra lacrima che vola via col vento, ancora carne tracciata sul cemento. Nuovo muro per portare pace, separa, divide, guarda e tace, quei sogni dei bimbi che non si arrendono, che volano alti dove non li prendono. Cade con forza la stessa dell'odio, buttaci il muro e scrivi il futuro, agisci col piscio oppure vergotta, scegli tuo modo, continua la lotta. Alba, dopo il tramonto, sono sempre i civili che pagano il conto, mentre il boia, chiamato Occidente, guarda, annuisce, non dice niente. Terra promessa, sogno lontano, inferno odierno del genere umano, contro l'esercito, la popolazione, con l'intifada per la liberazione. Buttaci il muro, scrivi il futuro, agisci col piscio, prima cotta, scegli tuo modo, continua la lotta. La lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta, la lotta. e sono un criminale, caduto in gabbia sotto il regime militare, che mi ha tolto tutto, negato ogni dignità, ma il mio nome rimane simbolo di libertà. Dentro queste mura, tra urina e merda, quale blocco H dove ogni ora è persa, dove si spera che l'incubo abbia fine, e mentre il sole cala si prega di morire. altro urlo fuori dal campo, un'altra voce che si unisce al canto, mentre nel mezzo sul campo di cemento ragazzi lottano, sono spinti dal forte vento. 52 che canta fa cantare, ragazzi veri che giocano e fanno sognare, contro un pallone che sanguina amaro, razzismo e calcio che sanno di denaro. Che non smettono di urlare, da ogni caduta stai certo ci alzeremo, stringendo i pugni più forti riverremo. Yeah. Un suono di battaglia che non cadono al tramonto come un fuoco di paglia, che scendono nelle strade al fianco di chi lotta, che portano un sorriso dove la pietà è morta. Con la gran cassa che picchia fa saltare, finché c'è ritmo c'è forza per sognare. Fionda chitarra, basso fucile, le armi son pronte, pronti per partire. I nostri sogni che brillano dai monti, che spiegano le ali per la resa dei conti. Staremo in piedi stringendoci le mani a sparare canzoni per riprenderci il domani. Con la gran cassa che picchia fa saltare, il vecchio Joe che canta e fa sognare. Fionda chitarra, basso fucile, le armi son pronte, pronti per colpire. Padrone è partito, in alto i cuori per l'ultimo bandito. Senza paura, padrone ne è partito, fino alla fine, fino all'ultimo bandito. L'ultimo bandito, l'ultimo bandito. volta che ancora fischia il vento. Dici che il lavoro è la base della società, precario in nero a progetto, scegli tutta libertà, mentre nei testi sacri si semina speranza, i grandi capi religiosi predicano l'intolleranza. Come Dio giudichi e decidi, provochi massacri e genocidi. Ascolta che ancora fischia il vento. Fischia il vento! Yes, I listen to the big combination. Mr. T.O. Guacamaya Band. Funky reggae party. Rebel music. Yeah, I see up in the sky the last rainbow shine bright. Stand up and fight for your rights, I say. In a rebel situation, stand up and fight for your rights, you know. A funky rock combination. Listen, Mr. T.O. and Guacamaya Band. Fighting for freedom, fighting for people. For the chopper never stop the fight. Last rainbow shines up in the sky. Aye, aye, aye, aye. Yes, I rebel music. Every castle, the sun in the sky, hold the rainbow, break the night. We're living in the perfect world. You kill the fire for money and life. Fight on the face, so let me try. The tear rain from deep down eyes. The top is blinding, it's over now. You start the hour for getting a die. A die. So why in this country we cry for all in Mexico? Guacamaya Band and Mr. T.O., listen to me now. Check out the real situation. In Mexico, Chiapas, people are shouting and fighting to be free. Rebel people for life and rights. Yes, I stand up and fight. Never stop the fight. Listen again. There isn't peace without freedom for all. There isn't a smile without war and death. This revolution is the last rainbow. For fight the rain and save the light. For fight the rain and save the light.